e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, bentrovati da Deborah Rosciani, oggi in solitudine, almeno in conduzione per quello che riguarda cuore e denari, ma chiaramente non vi faremo mancare anche i temi appunto dell'amica Nicoletta, che mi ha lasciato delle questioni molto interessanti da affrontare con voi. Adesso vi faccio il rapido elenco di tutti i temi che tratteremo in questa lunga puntata di venerdì di Cuore e Denari. Forza che il fine settimana ormai è vicino, però dobbiamo fare un po' il punto della situazione su alcune notizie economico-finanziarie e di salute molto importanti. Allora, per quello che riguarda intanto la parte di denari, ci occuperemo fra un po' di una iniziativa che riguarda le zone terremotate di un anno fa. C'è una bella iniziativa di carattere turistico e di valorizzazione che ci piace segnalarvi. Forse è più una notizia di cuore che di denari, ma ci pareva carino dare il nostro contributo di ricordo e di mantenimento dei riflettori su queste situazioni appunto anche da parte di Cuore e Denari, segnalando l'iniziativa che sta partendo da parte dell'ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo. Fra un po' ve la raccontiamo. Per l'approfondimento di denari invece ci sono tante notizie stamattina sui giornali. C'è la via libera alla manovra da quasi 3 miliardi e mezzo, la manovra di aprile che ci è stata chiesta da Bruxelles come aggiustamento dei conti pubblici, ma in realtà è quasi una piccola legge di bilancio che ha molte notizie importanti per le famiglie, i contribuenti. Ne parleremo, anche se il nostro focus sarà su una iniziativa che in realtà ha avuto il via libera da due giorni, è la legge sul lavoro autonomo, che è stata pubblicata il 13 giugno, quindi tre giorni fa, sulla Gazzetta Ufficiale. Le nuove disposizioni, molte delle nuove disposizioni sono già in vigore, quindi cercheremo di capire che cosa cambia, quali sono le nuove tutele che arrivano per i lavoratori autonomi, per le partite IVA. Ci sono le nuove garanzie per maternità, per malattie e congedo parentale degli iscritti alla gestione separata. Quindi, siccome so che siete in tanti anche ad ascoltarci, naturalmente sono tutte notizie che vi interessano e sulle quali, peraltro, se volete, potete già cominciare a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24. Faremo il punto di borsa, che oggi è molto positiva in tutta Europa, nonostante il nuovo scivolone registrato ieri sera dai titoli tecnologici americani. Per la parte di cuore, invece, stamattina ci daremo una mossa, consigli sull'attività sportiva da praticare nei mesi estivi. Per chi è stato un pigrone per tutto l'inverno, cosa potrà fare nelle prossime settimane? Ci sono consigli per noi adulti, perché inizia a farsi sentire il caldo e muoversi diventa più faticoso e spesso scappa anche la voglia. Allora, oggi, con i suggerimenti dei nostri esperti, impariamo a scegliere e a modulare l'attività sportiva per goderne tutti i vantaggi e per far sì che resti comunque un appuntamento piacevole. Però non ci dimentichiamo anche dei più piccoli, perché adesso che la scuola è finita magari si trovano a frequentare campus sportivi. Come sta andando? Che tipo di sport hanno scelto i vostri figli da praticare nelle prossime settimane calienti? Raccontateci anche questo, se vorrete, all'800 24 00 24. Siamo assolutamente a vostra disposizione con questa raffica di argomenti da affrontare questa mattina, per cui siamo pronti a partire. Allora, sì, un attimino la borsa ve la racconto. Per tutti gli appassionati dell'aggiornamento che in genere facciamo a quest'ora del mattino, abbiamo rialzi abbastanza buoni in tutta Europa, un po' differenziati per la verità, perché c'è la solita Londra che rimane un po' indietro, più 0,36% per la City. Molto meglio vanno le altre piazze continentali. Francoforte guadagna un punto, mezzo punto, e Parigi a guadagnare un punto, Milano più 0,7% sul FTSE MIB. Il miglior titolo di Piazza Affari è CNH Industrial, guadagna 4 punti percentuali. Standard & Poor's ha migliorato il rating sul titolo, riportandolo a investment grade. L'agenzia di rating ha migliorato ieri il suo giudizio sia sul debito di lungo termine che sul debito di breve termine. L'outlook è stabile sulla società e quindi il titolo in rialzo. Ma oggi va bene un po' tutto il settore automobilistico quotato a Piazza Affari. Parliamo ovviamente di Fiat Chrysler più 1,10%, poi bene anche Ferrari più 2,31%. Ci sono stati i dati sulle immatricolazioni europee In Europa il mercato è cresciuto del 7,7% lo scorso mese di maggio, tornando così vicino ai livelli pre-crisi di maggio 2007, lo ha comunicato stamattina l'Associazione dei Costruttori Europei ACEA. Sono in crescita quasi tutti i principali mercati, l'Italia cresce dell'8,2%, Fiat, le immatricolazioni appunto dell'ex Lingotto, ormai è una casa automobilistica italo-americana, sono cresciute dell'11,9%. La quota di mercato del gruppo in Europa è salita al 7,7% dal 7,4% del maggio dello scorso anno. Oltre a CNH e Ferrari crescono a Piazza Affari anche UbiBanca più 2,29, Azimut più 2, Italgas più 1,79%, Moncler più 1,47, in calo invece abbiamo Yuxe e Net-a-Porter meno 1,38, Saipem meno 1,11. Segnalo anche che scende molto lo spread, stamattina era intorno ai 165 punti base. Vedremo poi l'apertura di Wall Street oggi pomeriggio, sempre sotto osservazione proprio per questa attenzione che registriamo sui titoli tecnologici, ma adesso cambiamo radicalmente argomento perché in apertura di puntata appunto andiamo a presentarvi un'iniziativa che partirà tra qualche giorno e che mette insieme senza dubbio il cuore e i denari. Ce la presenta Fabio Maria Lazzarini, consigliere Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo, che salutiamo. Buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno a lei e ai ascoltatori. Grazie di essere con noi questa mattina, ma soprattutto grazie per questa iniziativa che state intraprendendo. Si chiama Sali a Borgo, partirà tra una settimana, il 23 giugno esattamente. Le lascio l'onore di farci il biglietto da visita di questa iniziativa che riguarda, questo però lo voglio ricordare io, le zone terremotate, la valorizzazione del turismo in queste aree che sono così belle ma che in questo momento vivono un momento di grandissima difficoltà per le vicende della scorsa estate e non solo. Lazzarini. Grazie mille, sì. Questa è la prima occasione in cui presentiamo questa iniziativa pubblicamente, non poteva essere il titolo della trasmissione più azzeccato, nel senso che questa è una iniziativa che nasce dal cuore, decisamente dal cuore, sia come sentimento che come geografia, perché poi sono le regioni che sono il cuore del nostro paese, però ha a che fare anche col denaro, il denaro, perché è un'iniziativa che cerca di riportare l'attenzione dei turisti italiani e stranieri in un'area meravigliosa. Noi stiamo cercando di avere un approccio a queste regioni ben lontano dalla pietà o dalla compassione, sono regioni che hanno avuto delle grandi difficoltà, ma sono regioni che hanno una loro dignità e ci andiamo perché sono delle regioni belle, sono il cuore dell'Italia. Il turismo ormai è cambiato molto rispetto a tanti anni fa. Tanti anni fa si usava dire ho fatto la Sardegna, quest'anno in vacanza ho fatto la Sicilia. No, Sardegna e Sicilia sono fatte dal buon Dio, da quello che uno crede dalla natura un po' di millenni fa, se mai li hai visitati. Ecco, il turismo è diventato sempre di più esperienza, non si va a vedere delle cose, si va a vivere l'esperienza. L'Italia in questo è una superpotenza mondiale perché può offrire quella combinazione di bellezze naturali, storiche, culturali, enogastronomiche, la tipicità, ma anche quel vivere all'italiana che gli stranieri guardano con molto interesse, perché il modo nostro di vivere, noi ci prendiamo un po' in giro, siamo tendenzialmente un pochettino negativi con noi stessi, in realtà il modo in cui viviamo attira molto il turismo. Certo. Quindi insomma partiamo intanto con il linguaggio quando parliamo di questi argomenti. Tanto è vero che presentando la vostra iniziativa, lo ribadisco, come si chiama, è Sali a Borgo, voi non amate parlare di tappe che saranno toccate durante questo viaggio che adesso lei ci racconterà come si articolerà, bensì di itinerari, giusto Lazzarini? Assolutamente. Sì, sono itinerari che abbiamo disegnato, devo dire, abbiamo, è un cercare di mettere la targhettina di aver fatto qualcosa, una cosa in cui invece abbiamo fatto molto poco. Sugli itinerari ci siamo fidati di esperti del settore, in particolare il direttore della rivista Motociclismo con tutti i suoi collaboratori, noi abbiamo detto le zone in cui volevamo andare, poi abbiamo disegnato toccando delle tappe che ovviamente non potevano mancare in un'iniziativa di questo tipo, da Amatrice a Norcia, cioè quelli più colpiti, però andiamo veramente a scoprire. L'idea è un po' quella di perdersi, ovvero sia, anche qua ci sta un po' cuore di un cuore e testa, nel senso che la nostra idea è, se uno ragiona con la testa, guarda l'efficienza, guarda la fretta, guarda la pianificazione del viaggio, allora se si mette in autostrada, un po' come Magda nel film Bianco, Rosso e Verdone, ecco, cioè a che ora arriverò alla stazione di servizio, a che ora arriverò? No, la nostra idea è uscire dall'itinerario, uscirci con una moto, che è il modo migliore per andare a visitare certi posti. Infatti vostro partner, lo ricordiamo, appunto Guzzi, saranno le Moto Guzzi. Moto Guzzi, che ha disegnato delle moto apposta per noi. Ah sì? Sono moto normali, però sono state brandizzate, però non posso rivelare. Proprio tutto, esatto, perché sennò nessuno vi viene a seguire. Qualcosa mi devo tenere, esatto. E l'idea è proprio quella di perdere, se vuol sia di uscire, quindi usare più il cuore che la testa, andare dove segue, dove ti porta la passione, guardare con calma e avere la voglia della sorpresa, non di sapere già cosa stai per vedere, ma di non sapere cosa stai vedendo. Qui abbiamo disegnato degli itinerari, ci diamo anche molto la libertà di perdersi, perché è una cosa in cui diciamo che bisogna perdersi, non dovremmo limitarci da soli, per cui ci sono degli itinerari di massima, abbiamo delle tappe da toccare, perché sono tappe, ripeto, che dobbiamo visitare, borghi che hanno i centri storici. Poi abbiamo avuto una grande collaborazione da un'associazione con cui abbiamo una relazione ormai da un po' di tempo, con ENIT, che è l'associazione dei borghi più belli d'Italia. Con loro e con i sindaci di questi borghi abbiamo organizzato proprio per far vivere l'autenticità, certo, di quei posti. Non ci arriviamo soltanto, facciamo un diretto per la piazza a vedere quanto è esatto, la nostra, esatto, giusto per andare magari un po' ad agitare anche le acque in queste aree che hanno già tutti i loro problemi, ma insomma il tema è poi fare in modo che si continui a mantenere il riflettore acceso, puntato, come dico io sempre, su queste aree che devono essere sempre ricordate, pur mantenendo una naturalmente il pieno rispetto di queste delle popolazioni di queste zone che si stanno risollevando. Sì, che però stanno tornando a vivere. Faccio solo un esempio: per esempio, il 24, quindi sabato prossimo, la seconda tappa finisce in un borgo meraviglioso che si chiama Montone. E tutti i borghi di questa associazione di borghi più belli d'Italia il 24 giugno hanno la loro cosiddetta notte romantica. Vabbè, noi saremo quattro biker marchi, non sarà molto divertente, però magari qualche sorpresa buca. Però per dire, noi ci inseriamo in qualcosa che esiste già o che è stato fatto in occasione del nostro arrivo, però andiamo proprio nei paesi e nei borghi che stanno vivendo la loro vita quotidiana, che è quello che vogliamo, certo, far vedere. Lo voglio far vedere coinvolgendo persone. Benissimo, si parte il 23 da Pesaro, è un coast to coast che si concluderà a fine luglio nel Lazio. Lazzarini, grazie per essere stato con noi, io devo salutarla, ma ci sarà anche lei, guida la moto? Sì, assolutamente. A Centauro? Bene, mi raccomando, allora, ci mandi qualche foto perché noi, se vuole, vi seguiremo, ecco, e magari vi così racconteremo anche il vostro circuito, se così possiamo chiamarlo, sulle nostre pagine Facebook, quindi ci piacerebbe essere coinvolti, non solo perché io sono marchigiana personalmente, dottor Lazzarini, ma perché siamo molto vicini a queste popolazioni, le abbiamo seguite in ogni modo anche nella ricostruzione, l'ha fatto il nostro Simone Spezia con Effetto Giorno, che puntualmente ogni tanto va, ritorna ad intervistare i sindaci di questi centri per capire a che punto è la ripresa della vita normale, che è difficilissima. Grazie a Fabio Maria Lazzarini, consigliere ENIT, Agenzia Nazionale del Turismo, per l'iniziativa Sali a Borgo. Si parte il 23 giugno da Pesaro, quindi si va in giro da qui a fine luglio per ripromuovere e valorizzare appunto i borghi più belli d'Italia, in particolar modo quelli colpiti dal terremoto della scorsa estate. Ci fermiamo, c'è il traffico tra poco. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, oggi sulle prime pagine di tutti i giornali trovate la notizia del via libera alla manovra correttiva di aprile, quel provvedimento che ci è stato chiesto gentilmente, ma non tanto, da Bruxelles per correggere di quasi 3 miliardi e mezzo i conti pubblici, intervento che appunto alla fine ha assunto proprio per la sua dimensione anche la forma di una vera legge di bilancio. È il provvedimento che contiene tutte quelle norme di cui abbiamo largamente parlato nelle ultime settimane a Cuore Denari, sulle quali torneremo, promesso, dalla tassa Airbnb, la famosa web tax transitoria, ai nuovi voucher, l'addio agli studi di settore, il debutto degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, rimborsi IVA più veloci. C'è anche la norma che abolisce la circolazione delle monetine da 1 e 2 centesimi a partire dal prossimo 1 gennaio. Anche a questo tema, lo ricorderete, abbiamo dedicato una lunga puntata di Cuore Denari un paio di settimane fa. La potete andare a ripescare sul nostro sito di Radio 24, sulle pagine di Cuore Denari, ma fra un po' il riassunto di questi provvedimenti ce lo fa dopo le 11 il nostro Giovanni Parente. Noi adesso iniziamo un altro tema importante del momento, il lavoro autonomo. Ritorniamo sul tema del lavoro autonomo perché sappiamo bene come questa modalità rappresenti per molte professioni l'unica possibile per entrare nel mercato del lavoro. Dunque tutte le nuove tutele messe in campo dal nuovo Jobs Act del lavoro autonomo ci sembrano particolarmente importanti. Jobs Act del lavoro autonomo, che è entrato in vigore da mercoledì scorso, quindi da 2 giorni, con una serie di disposizioni che sono già operative, che sono da subito operative. Allora, intanto, per gli appassionati, e noi ne abbiamo tanti, di riferimenti legislativi, segnaliamo che la legge pubblicata in Gazzetta è la numero 81 di quest'anno. Oggi proviamo a capire con 2 esperti cosa è immediatamente operativo, quali altri tasselli mancano al completamento di questo nuovo regime di tutela per le partite IVA e i lavoratori autonomi italiani, perché effettivamente tasselli al mosaico ancora mancano, anche se entro la fine dell'anno arriveranno e saranno attuate 4 deleghe. Allora, i nostri ospiti di oggi, che ringrazio e saluto per essere con noi, intanto c'è il ritorno di Angelo Deiana, presidente di Confassociazione. Presidente, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Grazie anche ad Anna Soru, presidente di ACTA, Associazione Consulenti Terziario Avanzato, anche se la cerchiamo su web, la troviamo come l'associazione dei freelance. Anna Soru, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Grazie. E grazie. Ovviamente microfoni aperti anche agli ascoltatori all'800 24 00 24 per tutte le domande che ci vorrete porre su questo provvedimento così importante, per il quale si è tanto lottato. Lo hanno fatto le organizzazioni che sono qui presenti questa mattina, ma non solo, anche le associazioni degli artigiani, delle partite IVA, perché naturalmente si cerca di implementare il regime di tutele per questi lavoratori da moltissimo tempo, che, come sapete, quando non lavorano non avevano diritto fino a poco tempo fa, insomma, a tutta una serie di determinati trattamenti, a tutta una serie anche di ammortizzatori sociali, che invece adesso con questo nuovo regime vengono chiaramente garantiti, e quindi ci sembra importante. La mappa delle novità è molto estesa, c'è la parte dedicata alla relazione dei lavoratori autonomi e all'amministrazione fiscale, ci sono delle novità per ciò che attiene i rapporti con la pubblica amministrazione, c'è la parte importantissima sulle nuove garanzie che vengono riconosciute a professionisti e autonomi nel campo del welfare. E allora, adesso cosa succede in caso di malattia, maternità, infortunio? Se volete, ci potete anche scrivere al 349-238-6666. Per dare il benvenuto, visto che Anna Soru è la prima volta che interviene a Cuore e Denari, le chiedo subito: cosa vi piace e cosa non vi piace del Jobs Act, che dovrebbe essere una gran bella novità per voi? Nel complesso ci piace. Nel complesso ci piace perché comunque ci riconosce come lavoratori e appunto prevede una serie di misure che miglioreranno il welfare e il fisco. Sappiamo che non può finire qui, cioè sappiamo che questo è solo un primo passo, però ci incoraggia poi ad andare avanti. Deiana, Confassociazione, invece, qual è il giudizio complessivo che dà su tutto il pacchetto? Poi andremo ad esaminare punto per punto i temi più importanti e di immediato impatto per tutti i lavoratori interessati. Ma diciamo che la posizione di Confassociazioni è la stessa di ACTA e la stessa delle altre organizzazioni con cui abbiamo fatto la battaglia. La legge non è perfetta, come d'altra parte tutte le leggi, però siamo moderatamente soddisfatti perché finalmente nell'ordinamento giuridico italiano incominciano ad esserci una serie di tutele, una serie di istituti di welfare e una serie di regole che chiaramente tutelano di più il lavoro autonomo rispetto a quelle che c'erano prima, che erano tutte sostanzialmente incentrate sul lavoro dipendente. Quindi bene, c'è ancora da fare, vedremo quello che si potrà fare in questa legislatura, se no ci attiveremo nella prossima. Per la prossima. Allora, siccome intanto noi abbiamo come al solito la maledizione del telefono, adesso ripristiniamo per la seconda parte del programma la telefonata con Angelo Deiana, e fra un po', peraltro, già devo andare in pausa per il giornale radio, però Anna Soru, volevo anche chiederle, per soddisfare le curiosità dei nostri ascoltatori, ACTA che tipo di lavoratori e di professionisti rappresenta, tanto per far capire appunto agli amici che ci seguono da casa per quale motivo anche vi abbiamo interpellato su questo argomento questa mattina. Perché è così importante per voi? Per quale motivo? Per quali lavoratori lavorate voi in rappresentanza? Noi rappresentiamo freelance, quindi parliamo di informatici, di traduttori, di grafici, di pubblicitari, di tutti i lavoratori del web e così via, ma anche di professionisti con ordine, anche se siamo nati soprattutto per i non ordinisti. Questa legge riguarda i professionisti, ordinisti e non ordinisti, non riguarda gli artigiani, ecco. Ah sì, certo. No, perché l'altra volta ci eravamo fatti aiutare anche dalla CNA per farci dare appunto alcuni spunti, esatto, quindi c'è tutta un'altra, come dire, un altro ragionamento da fare per quella categoria. Detto questo, quindi ACTA è l'associazione dei professionisti indipendenti, mentre Confassociazione è la confederazione delle associazioni professionali, e quindi il soggetto di rappresentanza unitaria delle federazioni, coordinamenti e associazioni che esercitano attività professionali non organizzate in ordini e collegi. Ci fermiamo perché abbiamo il giornale radio e insomma questo è tutto il presupposto del Jobs Act, ma adesso dopo il GR naturalmente vi raccontiamo tutti i dettagli. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Apparteniamo a una comunità di viaggiatori in cerca di luoghi sconosciuti, tutti da scoprire. Un'Italia fatta di borghi antichi, di bellezze naturali e meraviglie architettoniche. Viaggia con noi per ascoltarne la storia e respirarne l'atmosfera. Radio 24 e Touring Club Italiano ti portano in alcuni tra i luoghi più belli e suggestivi del nostro paese. Ogni settimana in onda nel Sabato del Villaggio. Il sabato dalle 15 su Radio 24. Cuore e denari. Una monetina te, una te. Sì, ripartiamo con le monetine perché da prossimo gennaio scompariranno dalla circolazione, quantomeno non verranno più coniate. Poi il fatto di sparire dalla circolazione magari richiederà tempi un pochino più lunghi, probabilmente per chi se le ritroverà ancora in tasca, come succederà a noi, potrà continuare ancora per un po' a mettere nella macchinetta del caffè, ma dal primo gennaio dell'anno prossimo non verranno più coniate le monetine da 1 e 2 centesimi. Ce ne siamo occupati anche in un'altra lunga puntata che vi ha molto appassionato di cuore e denari, non tanto per il fatto che queste monetine scompaiono quanto per il fatto che poi naturalmente si vedrà un automatico aggiustamento dei prezzi, un automatico arrotondamento dei prezzi, trend su cui vigilerà anche l'autorità garante del mercato. Fra un po' di tutto questo parlo con il nostro Giovanni Parente di tutto questo, perché è una delle misure contemplate nella manovrina da 3,5 miliardi che ha avuto il via libera dal Senato ieri. Ma adesso stiamo andando avanti con il Jobs Act del lavoro autonomo, con i nostri ospiti di stamattina: Anna Soru, presidente dell'associazione dei freelance, l'ACTA, e Angelo Deiana, presidente di Confassociazione. Le domande dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24. Anna Soru, dicevamo prima che l'ACTA è l'associazione dei professionisti indipendenti che operano al di fuori di ordini e albi professionali, no? E che hanno per clienti imprese o enti pubblici, e quindi anche per voi, lo sottolineavamo, è particolarmente importante tutta la rosa di norme che va a disciplinare nell'ambito di questo nuovo statuto, a disciplinare con grande chiarezza quello che è d'ora in avanti il rapporto con chi vi commissiona lavori, ma non si sa in che termini paga e remunera. Allora, qual era la situazione fino a questo momento? Che cosa teoricamente, speriamo anche concretamente, cambierà? Diciamo che lo statuto mette in evidenza che ci sono alcuni diritti, fra cui quello di essere pagato entro 30 giorni. In realtà questa legge esisteva già ed era abbastanza poco nota. E forse più importante è un altro articolo che è contro le clausole abusive. E tra le clausole abusive c'è per esempio quella di poter indicare un termine di pagamento superiore ai 60 giorni. Quindi la norma generale è 30 giorni. Le parti si possono derogare a questa norma, però fino a un massimo di 60 giorni. Sopra i 60 giorni viene considerata una clausola abusiva. E un'altra cosa importante è che il committente non può rifiutarsi di fare un contratto scritto se il freelance lo richiede. Quindi diciamo la stretta di mano per pattuire determinati lavori ormai è, come dire, una prassi che deve cadere in disuso, diciamo, per quanto lo si possa pattuire in amicizia, e scripta manent, verba volant, no? Sì, diciamo l'invito che noi facciamo a tutti i freelance è di chiederlo il contratto scritto, perché in molti settori, in molti casi, si è ancora abituati al contratto, all'accordo verbale. Mentre invece è molto importante, soprattutto per incarichi che siano un po' importanti, avere dei contratti scritti. Certo. Perché questo è un primo passo per garantire i propri diritti. Poi sappiamo che invece sul fronte dei tempi di pagamento la legge non basta, c'è ormai una tale abitudine al ritardo nei tempi di pagamento che non può essere sufficiente. Certo. Proprio per questo noi pensiamo di organizzarci per fare delle azioni di tipo legale, cioè per fare in modo che i committenti che sono abituati a pagare in ritardo possano perdere delle cause. Perdere una causa significa pagare le spese processuali, pagare gli interessi di mora, E in questo modo essere dissuasi da comportamenti scorretti anche in futuro. E infatti, ma che cosa potranno fare secondo lei i freelance anche per sensibilizzarsi sul fatto, sono talmente disabituati, no, ad avere tutto questo regime di tutele che probabilmente anche per loro ci sarà molto lavoro emotivo e mentale da fare per capire che adesso potranno chiedere e rivendicare determinati trattamenti da parte dei committenti di lavori. Quindi anche su questo probabilmente dovrete lavorare. Noi dovremmo lavorare su questo, tenendo presente che la situazione è molto delicata. Certo. Con un cliente con cui penso di continuare a lavorare non vado in causa. Evidentemente. Allora, però con un cliente con cui ho finito il lavoro, con cui penso di non avere più altre possibilità, posso andare in causa. Certo. Angelo Deiana, cosa ne pensa di questi aspetti che abbiamo affrontato fino a questo momento, e ci dia anche lei tutti gli altri punti di questo statuto del lavoro autonomo appunto da valorizzare. Mi ricordo che in un'altra puntata in cui lei era stato nostro ospite su questo argomento aveva valorizzato particolarmente tutto il tema dell'alleggerimento fiscale che avranno i lavoratori autonomi appunto che vorranno sostenere spese per migliorare la loro formazione professionale e quant'altro. Anche quello è un capitolo molto importante. Sì, è un capitolo fondamentale, perché è chiaro che per essere competitivi sul mercato, soprattutto come lavoratori autonomi, bisogna sempre implementare le proprie competenze, bisogna aggiornarsi, e quindi era veramente un paradosso che il lavoratore autonomo non si potesse scaricare tutta una serie di spese che chiaramente deve sostenere. Pensiamo un attimo a una partita IVA che si occupa di tributi, i tributi cambiano ogni 6 mesi, anzi forse anche più in fretta, ed è chiaro che c'è bisogno di un aggiornamento costante. Fino a prima della legge 81-2017 queste spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento, comprese le spese di viaggio e di soggiorno, non potevano essere scaricate se non al 50%. Adesso, con un limite di 10.000 euro all'anno, possono essere scaricate integralmente. E quindi questo chiaramente dà un vantaggio competitivo al lavoratore che vuole essere attivo sul mercato. Per quanto riguarda le altre valutazioni, devo dire che Anna Soru ha toccato già un punto fondamentale, che è quello della contrattazione tra privati e tra la partita IVA e la pubblica amministrazione, così come io credo che valga la pena di fare una riflessione importante sulla indennità di malattia e sull'indennità di maternità. Certo. La cosa che mi fa piacere, tanto poi insomma con Anna non abbiamo problemi, sottolineare sul tema della maternità è che finalmente la donna che sta in maternità può, non deve per forza interrompere il rapporto di lavoro con i propri clienti, che era chiaramente una derivazione del vecchio modo di pensare il lavoro dipendente, perché è chiaro che un professionista autonomo che non ha rapporti con i clienti dopo 6 mesi è morto praticamente, e quindi questo secondo noi è uno dei punti fondamentali che possono essere utili per rendere ancora più competitivo, come dicevamo prima, il lavoratore autonomo pur nella logica della maternità. Certo, tutto il tema della maternità viene trattato dall'articolo 6 del nuovo Jobs Act del lavoro autonomo, che però mi pare di capire, Deiana, deve essere ancora formalmente inserito nel nostro ordinamento giuridico, perché in questo caso è una delle 4 deleghe che devono essere completate appunto dal legislatore entro la fine dell'anno, giusto? Esatto, perché l'81-2017 ha una serie di previsioni normative, alcune direttamente operative, altre come quella sulla maternità devono essere oggetto di delega da parte del governo entro un anno, e chiaramente un anno, se voi pensate alla fase tra virgolette di diciamo così turbinio preelettorale che ci sta caratterizzando, la cosa un pochino ci preoccupa. Speriamo che ci sia il tempo per esercitarla questa delega. Infatti, Anna Soru, c'è un altro punto, quello contemplato all'articolo 10 dello Statuto del Lavoro Autonomo, che mi incuriosiva. Debuttano, cioè si chiama placement questo articolo, debuttano gli sportelli lavoro nei centri per l'impiego che raccolgono domande e offerte di lavoro autonomo. Anche questa mi pare di capire che sia una gran bella novità. Sì. magari è una novità, è una novità sulla carta che bisognerà rendere implementare, come si dice, operativa, nel senso che gli sportelli per il lavoro tradizionalmente si sono sempre occupati del lavoro dipendente. Quindi non è facile pensare che adesso improvvisamente riescano ad attrezzare. Sì, diciamo che a menti morisce un po' il fatto che questo compito venga attribuito ai centri per l'impiego, che già sono sempre alla ribalta della cronaca per non ottemperare esattamente la lettera ai loro compiti. Quindi figuriamoci se si incrementano. In realtà si parla anche di collaborazione con le associazioni, però a costo zero. Quindi adesso bisognerà capire come tutto questo potrà avvenire. Cioè, nel senso che è giustissima questa apertura alle politiche attive, delle politiche attive del lavoro al lavoro autonomo professionale, mi sembra difficile poterlo fare senza risorse. Certo. Senta Anna Soro, tutti i lavoratori freelance che sono associati alla vostra organizzazione versano i contributi alla cosiddetta gestione separata del nostro principale ente di previdenza? Quindi sono tutti iscritti alla gestione separata? No. Perché anche questo è importante fini dei destinatari, appunto, dei provvedimenti di questa mattina. No, non sono tutti, però bisogna ricordare che la gestione separata era la gestione, e diciamo, Cenerentola dell'INPS, cioè era quella che aveva i costi più alti in cambio di tutele praticamente inesistenti, e con lo statuto un po' si rimedia, lo statuto, ma anche con la riduzione dei contributi che è avvenuta prima dell'approvazione dello statuto, si rimedia a questa situazione di forte squilibrio. Quindi non tutti i nostri iscritti sono della gestione separata, però la gestione separata è sicuramente una gestione a cui afferiscono molti nostri iscritti, e quindi siamo soddisfatti delle misure che adesso amplieranno queste tutele. È chiaro che questo è un passaggio, non può essere il punto d'arrivo, è un passaggio perché noi abbiamo un sistema di welfare che è diviso in segmenti, ognuno con regole diverse e segmenti che non comunicano fra di loro. E questa è una situazione che non può durare a lungo, perché in realtà il mercato del lavoro è estremamente fluido, un giorno sono dipendente, il giorno dopo sono autonoma, o anche mi può capitare di lavorare in contemporanea con posizioni da dipendente e da posizioni da autonomo, e quindi questa situazione deve essere superata pensando a un welfare che non è legato al tipo di contratto, ma che è legato al lavoro in senso certo. ampio. Senta, fra le vostre fra i vostri associati, chi è che vive la situazione più problematica in questo momento, proprio per il fatto che fino ad ora sono mancate tutte queste tutele che adesso cercano appunto di decollare con questo provvedimento, con questa nuova cornice legislativa? Esistevano anche all'interno della vostra organizzazione, mi passi il termine, che è brutto, insomma, figli e figliassi, chi viveva veramente delle condizioni particolarmente problematiche, che adesso può in qualche maniera rivendicare qualcosa di meglio nella propria vita professionale? Beh, pensiamo soprattutto a chi ha una malattia grave. E noi abbiamo fatto una grossissima battaglia sulla malattia grave. Alcune delle norme, alcune dei provvedimenti che abbiamo chiesto li abbiamo ottenuti. Abbiamo ottenuto la possibilità di rinviare i pagamenti dell'INPS in situazioni di malattia grave. Così come abbiamo ottenuto che la situazione di cura domiciliare, però particolarmente invasiva per malattia grave, venga equiparata alla malattia ospedaliera, e questo vuol dire allungare il periodo di tutela da 61 giorni a 180 certo. giorni, e anche raddoppiare l'indennità. Ne abbiamo parlato anche noi tante volte, ricordiamo peraltro anche la battaglia di Daniela Fregosi. Che esatto. è la nostra socia. Esatto, ottimo, grazie. Allora, ci sono molti ascoltatori che operano come agenti di commercio. Angelo, Deiana, queste figure professionali in qualche maniera ricadono nel nuovo regime di tutela stabilito dal Jobs Act del lavoro autonomo, o hanno una situazione a parte? Ma bisogna capire che cosa vuol dire veramente fare l'agente di commercio, perché per esempio gli agenti di commercio versano, così come fanno i consulenti finanziari, non alla gestione separata dell'INPS, ma all'ENASARCO, che è tutto un mondo sul quale esatto. spesso abbiamo promesso di rifare una trasmissione. Dove sostanzialmente ci sono anche lì, diciamo così, delle asimmetrie profonde che dovrebbero su cui bisognerebbe mettere mano. Ma io credo che il tema fondamentale comunque sia quello che ha toccato la dottoressa Soro, cioè il problema è che noi continuiamo a ragionare, e questa legge, per quanto importante, per quanto soddisfacente, continua a farlo, per compartimenti stagni, mentre dovremmo uscire sì dalla logica del posto fisso, chiamiamola così, la logica novecentesca del posto fisso, ma entrare in una logica di continuità professionale dove è chiaro che gli istituti di welfare, quindi la previdenza, la malattia, l'assistenza e via dicendo, dovrebbero essere coordinati in un tutto armonico che dia la possibilità al lavoratore senza aggettivi, quindi non più solo lavoratore dipendente, autonomo, libero professionale, io direi anche se questa legge, la 81-2017, prevede l'esclusione degli imprenditori, anche il lavoro imprenditoriale, cioè la forma imprenditoriale, la componente organizzativa dovrebbe essere neutra e gli istituti sia di giuridici di mercato del lavoro che di welfare dovrebbero ruotare attorno alla persona, perché poi è la persona quella che effettivamente coordina le sue capacità intellettuali e le sue capacità manuali e sceglie qual è la formula organizzativa che più gli si addice o che più gli conviene sul momento. Questo servirebbe anche a lavorare molto sul tema della disoccupazione e molto sul tema anche, diciamo così, dei periodi di disoccupazione fra un lavoro e l'altro. Allora, intanto io avevo promesso anche di sentire Giovanni Parente, collega del Sole 24 Ore. Giovanni, ci sei? Sì, ciao Deborah, fammi buongiorno. Sentire la qualità del telefono, perché sai che in questi giorni è un po' come la maledizione dello scorpione nero, noi abbiamo quella del telefono, invece ogni tanto ci fanno un po' di capricci le linee telefoniche. Ti sento bene questa mattina, ti abbiamo chiamato non solo per raccontarci anche della novità delle monetine, perché noi la conoscevamo, ci avevamo già fatto una trasmissione, però eravamo così in attesa di capire se questo provvedimento venisse approvato o meno. Ce l'abbiamo da ieri insieme a tutta la manovra da 3,4 miliardi la famosa manovra correttiva che è stata approvata in aprile, il Senato ha dato il via libera ieri, appunto alla correzione per il 2017. Questo gentile invito a questa correzione che ci è stato fatto da Bruxelles entra adesso pienamente operativo. Allora andiamo ai due o tre provvedimenti più importanti che riguardano famiglie e contribuenti all'ascolto. Giovanni. Sì, Deborah, assolutamente. Ricordavi giustamente tu la novità della sospensione del conio delle monetine da 1 a 2 centesimi dal 2018. Quindi, come dicevo, è una sospensione, non è un'eliminazione tu pur. Perché poi pensi che potrebbero tornarci, fare marcia indietro? Allora, di sicuro una cosa, cioè nel senso non è che le monetine che sono adesso in corso legale spariranno dalla circolazione, anche perché lo scriviamo oggi, cioè c'è chi le porta dall'estero, pensiamo agli altri paesi della zona euro dove continuano a essere coniate, quindi è l'Italia che decide di sospendere. L'altra questione che stai toccando giustamente tu è che potrebbe anche profilarsi, non si sa, un dietrofront su questa norma. Ricordiamo che il Senato ha dato il via libera ieri definitivamente alla manovra, non poteva di fatto modificare articoli perché altrimenti sarebbe dovuto tornare alla Camera, certo, cioè la settimana prima del preelettorale, quindi non ce l'avrebbero fatta ad approvarlo con i termini di conversione, però insomma c'è stata una dura presa di posizione della Commissione Finanze nell'approvare questa norma, in cui di fatto ha chiesto al governo di trovare poi un veicolo su cui fare parziale o totale marcia indietro. Quindi per adesso sappiamo che dal 2018 sarà sospeso il conio, però non sappiamo se e quanto durerà questa certo norma, quindi siamo con gli occhi ben aperti. Diciamo che è interessante, ma non è proprio l'aspetto più importante di tutta questa manovra varata ieri. Ci spieghi invece il tema dei voucher, visto che noi stamattina stiamo parlando di lavoro, forse questo stamattina è l'aspetto che ci interessa di più. Assolutamente, di fatto viene stabilita una disciplina del dopo voucher, come è stata definita, con un doppio binario, un binario per le famiglie e un altro binario per le imprese. Il binario per le famiglie prevede di fatto un libretto di lavoro che dovrebbe essere in qualche modo strutturato anche in maniera elettronica. Per le imprese, piccolissime imprese, ci sarà un contratto ad hoc, che è un contratto di lavoro occasionale, con dei limiti ben predefiniti, di fatto in modo da evitare abusi del fenomeno, e diciamo che la parte più importante è quella per le famiglie, dovrebbe consentire di utilizzare questo libretto soprattutto per le prestazioni di colf e badanti, come veniva utilizzato di fatto il ticket del voucher, per poter appunto pagare delle prestazioni e non lasciarle nel limbo del lavoro nero, ecco, da questo punto di vista. Infatti. Poi lasciami ricordare una cosa, se state parlando dei professionisti, è una norma che sembra così complicata da definirsi, però riguarda molti professionisti, tutti i professionisti, riguarda tutti i professionisti dal 1 luglio, si chiama split payment, già esisteva. Di fatto che cosa succede? Che quando avranno rapporti con la pubblica amministrazione o con le nuove società che saranno tenute ad applicarlo, verseranno soltanto l'importo della fattura e non più quello dell'IVA, perché l'IVA lo verserà direttamente il committente o cessionario, e quindi insomma i professionisti, anche professionisti, si verranno pagati senza la componente dell'IVA. Benissimo. Anna Soru, è un punto che gradite questo? Utile per voi? Sì, semplifica. Senta, invece sul tema dei voucher ha qualche commento da fare? Era in qualche maniera anche una modalità che utilizzavano per poter essere pagati i vostri associati, oppure è un tema che non vi riguardava affatto? Non ci riguarda direttamente, nel senso che non è proprio la modalità utilizzata normalmente per i freelance. Benissimo. Quello che pensiamo, quello che penso io adesso, non parlo a livello a nome dell'associazione, ma più un'idea mia, è che laddove il voucher è sparito sia stato in parte sostituito anche dalla collaborazione occasionale, e questo non credo che sia stato un bene. Benissimo, insomma benissimo non tanto, però avremo modo di ritornarci su questi argomenti anche con Angelo Deiana. Adesso però devo salutarvi perché sono già le 11.30, devo andare a raccontare la borsa. Insomma, questa mattina abbiamo cercato di fare un pochino di chiarezza sulla base di quello che sappiamo fino a questo momento del nuovo Jobs Act del lavoro autonomo, pronto a partire per gran parte appunto della sua modulazione. Per altre parti mancano ancora altre 4 deleghe che il governo deve esercitare, per cui sarà tema che affronteremo anche più avanti con altre trasmissioni. Quindi grazie ad Anna Soru, Angelo Deiana e Giovanni Parente. C'è la borsa, noi torniamo tra pochissimo. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Allora, settimana scorsa le scuole si sono chiuse, fra un po' partono gli esami di maturità. Stiamo dedicando anche alcuni approfondimenti con Nicoletta Carbone a questo argomento, in vista anche della puntata della grande giornata di martedì prossimo, con la nostra notte prima degli esami, e ci sarà anche il pre-notte prima degli esami con Cuore Denari, specificatamente dedicata a questo argomento, a tutti i ragazzi pronti a questa grande prova. Allora, però, per tutte le altre scuole chiuse, molti ragazzini sono a casa, i genitori continuano a lavorare, questo è un periodo un po' critico da organizzare, sempre più famiglie si affidano ai campus estivi. Intanto, peraltro, in questi giorni circolano già molti osservatori in cui si spiega quanto spendono le famiglie per sostenere anche questo impegno estivo. Campus estivi organizzati da oratori, comuni, società sportive o privati. Allora, voi come vi siete organizzati? Che cosa avete fatto negli anni passati? Da piccoli siete stati in colonia come me, che non ci andavo per niente volentieri? Che ricordo ne avete? 800 24 00 24 per intervenire in diretta. In linea con noi il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo. Buongiorno e bentornato. Ma lei ci andava in colonia quando era buongiorno, piccolo? Buongiorno, ben ritrovati tutti. Assolutamente no. Non ho questi ricordi. non mi dispiace più di tanto. Ma sai che io ho avuto proprio pochi giorni fa, qualche tempo fa, una discussione con mia mamma, perché io mi ricordo chiaramente che non solo non ci andavo volentieri, ma che un anno mi sono dovuta far venire a prendere perché mi sono fatta pure venire la febbre. Lei sostiene che non sia vero. O me lo sono sognato, oppure questo è, io non ci stavo volentieri, non ne ho adesso scapperei sempre ad andare in giro, no, in vacanza, certo. Era il momento giusto non ne godevamo, insomma, di quei momenti. No. Dottor Confalonieri, ovviamente con lei parliamo di centri estivi e sport, e chissà, magari proprio grazie a questa esperienza che permette di provare e sperimentare diverse discipline sportive sotto forma di gioco, si arriva poi a settembre con la voglia di continuare a fare sport, e facciamo in modo che i ragazzi si innamorino di qualche disciplina sportiva. Può succedere? E che si innamorino soprattutto del fatto di giocare con il loro corpo. Diciamo che i campi estivi, che si sono sempre più diffusi per rispondere a un'esigenza che fondamentalmente è sociale, cioè non c'è più la scuola, si lavora, e qui da qualche parte questi bambini dobbiamo metterli, purtroppo. Però diventano una grande opportunità finalmente per cominciare a muoverci in modo più o meno organizzato, in modo di gioco, attraverso lo sport. attraverso esperienze diverse, però è un periodo fondamentale perché i bambini riscoprano il gusto di muoversi, il gusto di divertirsi, il gusto di usare il loro corpo e magari imparino anche a usarlo un po' meglio, usarlo in modo un po' più intelligente. Quindi secondo me vanno vissuti davvero come un'opportunità straordinaria per recuperare quello che non si è fatto durante l'anno. Sono una sorta di corso di recupero per gli esami di riparazione. Ecco, infatti, così. Tra l'altro è molto buona questa idea di far fare loro, di stimolarli all'attività fisica, perché il loro corpicino si trasforma così tanto rapidamente che a giugno hanno una dimensione, una forma, a settembre sono completamente ribaltati questi bambini dal punto di vista estetico e fisico, per cui aiutarli anche in questi scatti di crescita che intensificano probabilmente in certi momenti dell'anno, forse con lo sport appunto è proprio assolutamente una buona idea anche per questa ragione, dottor Confortini. Verissimo, che dice, verissimo. Difatti io come dietologo con tante mamme, con tante famiglie che arrivano in questo periodo e dicono no, sono preoccupata, mia figlia, mio figlio mi sembra un po' in sovrappeso, cosa devo fare? Dico sempre sfruttate l'estate, cioè il più delle volte l'estate i bambini dimagriscono, si rimodellano, si ridefiniscono, quindi intanto fanno della prevenzione su quello che è uno dei potenziali problemi, che è il sovrappeso, e questo è molto importante. E poi soprattutto lavorano su quella particolare intelligenza che è l'intelligenza motoria, che purtroppo è trascurata tutto l'anno, soprattutto nel nostro paese, e che finalmente ha l'occasione di essere stimolata durante l'estate attraverso le varie tipologie di camp che esistono. Poi bisogna magari sceglierli anche in modo intelligente, sia in funzione della comodità, sia in funzione delle disponibilità economiche, sia in funzione delle proposte che fanno rispetto alle caratteristiche dei nostri figli, questo è chiaro. Infatti, allora, proprio su questo punto, cominciamo a fare una sorta di carta d'identità, sì. No? Ogni età ha il suo sport e questo vale anche per i bambini. Cominciamo con i più piccoli, i bambini che sono nella fase della scuola elementare. Su quali sport puntare e le finalità del campus? Allora, io qui sarei molto molto chiaro e netto. Scegliamo camp multisportivi il più possibile, cioè camp che propongano diverse attività nell'arco della giornata, nell'arco della settimana, e possibilmente che le propongano in forma di gioco, perché è fondamentale la dimensione del gioco per il bambino, ma soprattutto è fondamentale la possibilità di provare sport e attività diverse, perché siamo ancora in una fase di costruzione generale delle proprie abilità motorie e quindi diventa dannosa o comunque non vantaggiosa la specializzazione. Quindi piuttosto che scegliere camp monosportivi, scegliete assolutamente camp che consentano di sperimentare sport, attività diverse, possibilmente in forma di gioco. Certo, perché se dopo la scuola loro poverini si devono rimettere anche a fare lo sport che magari hanno praticato tutto l'anno, ancora una volta, certo, con lo spirito competitivo, ecco che viene e a noia. E poi soprattutto sviluppano meno la loro intelligenza. È come uno che voglia sviluppare l'intelligenza artistica, gli insegniamo le diverse tecniche pittoriche, no? Quindi il pastello, l'acquarello, il contrasto, quant'altro. Lo stesso vale per l'intelligenza motoria. Più stimoli gli diamo, più sono in grado di svilupparla. Questa sua versione pittorica non ce l'aspettavamo, ma stamattina ci fa piacere anche raccogliere questo stimolo. Andiamo ai ragazzini un po' più grandi, diciamo quelli che frequentano le scuole medie. Ed è un discorso in parte poi assimilabile anche agli adolescenti, anche perché poi c'è questa adolescenza precoce ormai, sia nei comportamenti che nelle scelte. Qui il discorso cambia completamente, completamente. Cioè, qua dobbiamo differenziare coloro che già hanno scelto uno sport, che già fanno uno sport durante l'anno, che già amano uno sport, e allora secondo me è giusto e intelligente proporgli durante l'estate un camp in cui possono specializzarsi nello sport che amano. Quindi se io già faccio calcio, se già faccio tennis, se già faccio nuoto, sceglierò un camp dove possa ulteriormente affinarmi nella disciplina che ho scelto, perché tutto sommato la scelta l'ho fatta. Viceversa. Quindi se il genitore lì a un certo punto interviene e dice ma dai, hai fatto calcio tutto l'anno, almeno l'estate fai qualcosa di diverso, non è l'atteggiamento giusto in questa età. Dopo i 10 anni no, se dopo i 10 anni il bambino ha bisogno anche di essere gratificato dall'attività sportiva in termini anche di competizione e di risultato, senza volerlo esasperare, e quindi è importante che si specializzi nello sport che ha scelto. Parlo ovviamente di gente che ha scelto uno sport e che lo fa a un livello sufficiente. Viceversa, per tutti coloro che non fanno sport abitualmente o che non sono particolarmente competitivi, è chiaro che vanno scelti camp dove lo sport è esclusivamente un momento di gioco, di divertimento, dove non c'è nessun tipo di pressione agonistico-psicologica. Quindi bisogna proprio differenziare in funzione della storia di ciascuno. E questo, la diversificazione vale anche qua, quella che stressiamo nel mondo del risparmio. Assolutamente, quindi tutto sommato io per un bambino già delle medie e ancora di più delle superiori che non eccelle nello sport e che non lo ama più di tanto, sarei orientato quasi a scegliere camp dove l'attività sportiva non è l'obiettivo prevalente, ma magari l'obiettivo prevalente diventa la lingua straniera piuttosto che l'arte, piuttosto che la musica, piuttosto che il teatro, piuttosto che queste cose. E poi cercherei di curare la sua salute da un punto di vista del movimento e dell'alimentazione in contesti diversi, perché in questo modo lo gratifico sul piano psicologico, certo. Cioè lo metto in un contesto dove lui si sente realizzato. Allora, dopo aver pensato ai nostri ragazzi, adesso devo dare la linea al traffico, poi parleremo anche di adulti, perché fare sport d'estate è bello, però con il caldo bisogna adottare anche qualche accorgimento in più. Adesso ne parliamo, però poi ritorneremo ancora per un minuto, dottor Confalonieri, al tema dei giovani e campus estivi da scegliere. Magari ci dia anche qualche dritta per scegliere le strutture giuste, a prescindere poi dalla disciplina in cui i nostri ragazzi si vogliono cimentare, a prescindere dalla loro età. Qualche accorgimento in più da adottare per valutare la struttura che scegliamo. Ovviamente la valutazione è molto economica da parte delle famiglie, questo lo sappiamo bene, soprattutto se i figli da destinare al campus sono più di uno, però magari valutiamo anche altri aspetti. Il dottor Confalonieri ci aiuta anche su questo, a tra poco. Cuore e denari. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Allora, attività estive per i nostri figli, a seconda dell'età, la scelta del campus estivo, e questa mattina il focus è su quelli che consentono di fare anche attività sportiva. 800 24 0024, numero verde per i vostri interventi in diretta. È già pronto Giovanni da Bergamo, che vuole interagire con noi e soprattutto col dottor Franco Confalonieri. C'è una mamma che ci scrive: Deborah, i centri estivi costano mediamente 250 euro a settimana, 5 giorni, quindi non tutta la settimana evidentemente. Ho due figli, sono 500 euro a settimana, parlo di centri estivi in città senza pernottamento, ma come si può? C'è anche un'indagine di Federconsumatori che ho sotto gli occhi, diramata proprio il 13 giugno, centri estivi, costi proibitivi per molte famiglie, la media è di 624 euro al mese a bambino nelle strutture private, 300 euro in quelle pubbliche, queste sono delle medie, quindi ecco che nascono forme collaborative, tate collettive, quindi c'è questa bella indagine di Federconsumatori che magari diffonderemo. Detto questo, dottor Confalonieri, lasciando da parte il capitolo denaro, che è fondamentale ovviamente, ammettendo che le famiglie possono indirizzarsi a fare valutazioni di altri aspetti dei campus estivi sportivi, a che cosa dobbiamo guardare? Oltre alla qualità ovviamente del personale di cui... Io partirei proprio anche da questa considerazione e riutilizzerei quella che magari è un po' la parola chiave della puntata di oggi, cioè la diversificazione. Cioè, se dovessi scegliere, ci sono comunque anche opportunità in quasi tutte le città a costi molto contenuti, che sono gli oratori o situazioni analoghe, dove ovviamente la qualità è relativamente più bassa, però la sicurezza in linea di massima è garantita. Quindi se dovessi scegliere, sono scelte che abbiamo fatto anche noi come genitore, che faccio anch'io tutte le estati per mia figlia, io punterei magari a fare due settimane a costi molto bassi all'interno di un oratorio e poi fare un investimento più importante per fare una settimana ad alta qualità o magari in una struttura anche fuori città che consente anche di fare un po' di vacanza o all'interno della città in un campo sportivo di alto livello che consente al mio ragazzo di specializzarsi in linea con quello che si diceva prima, piuttosto che fare due o tre settimane diciamo di medio livello, ecco. Questo è un po' il consiglio che mi sento di dare. Poi è chiaro, è un problema sociale importante, ma il tema è che una settimana di babysitter comunque non ti costa meno di un camp. Infatti, Damiano da Roma peraltro dice: a Roma costano meno, dai 60 ai 100 euro a settimana, pranzo compreso, dipende sempre da che cosa certo. E come si sceglie evidentemente. Certo. Andiamo invece ai ricordi di Colonia di qualche ascoltatore. Giovanni da Bergamo, benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità. Dove andava? Volevo portare la mia esperienza. Negli anni 60-70 io ho fatto 8 anni consecutivi, un mese a luglio in colonia a Celle Ligure, un posto bellissimo, una colonia gestita dall'azienda, e all'epoca tante aziende importanti lo facevano, gestita dall'azienda, che mettevano a disposizione dei figli dei dipendenti queste vacanze, perché probabilmente quei genitori che lavoravano in quelle aziende da soli non potevano permetterlo. Era una cosa intelligentissima, bellissima. Io ho fatto 8 anni stupendi. Bravo, dove ho fatto delle amicizie, ho avuto delle amicizie che mi porto ancora dopo 50 anni quasi. Ho imparato a diventare un po' più grande, autogestione, ad apprezzare un po' più la famiglia, perché quando si ritorna i genitori e la casa propria, cosa che a me è successa anche col militare. Bravissimo Giovanni, ora, esperienza educativa fondamentalmente, non si tratta del piazzare il bambino da qualche parte, no, ovviamente, okay, sì, allora diciamocelo, c'è anche quello, perché se si lavora con i bambini non è proprio facile, però il tema è anche, valorizziamo l'aspetto educativo. Le faccio sentire, dottor Confalonieri, anche Riccardo da Roma velocemente, che invece ha fatto gli scout. Riccardo? Sì. Salve. Sì. Buongiorno a tutti. Sì, se voi avete presente le madri degli anni 60, sì, per cui molto ansiose, eccetera, però per lei mandarmi a fare gli scout era comunque una cosa che la tranquillizzava. Quindi io ho imparato ad andare fuori casa, mia madre si è abituata al fatto che io andassi fuori casa e poi... Insomma, io sono andato fuori casa sempre. Una scuola di indipendenza sostanzialmente. Sì, sì, sì, anche se andavo in campeggio con gli amici, lei pensava che andassi con gli scout. Quindi era. Ah, ecco, vabbè. Insomma, magari glielo raccontava lei, Riccardo. E poi, insomma, da quello che leggo, lei sta facendo lo stesso anche con le sue figlie. Grazie per essere stato con noi, Riccardo, dottor Confalonieri. Andiamo adesso invece, negli ultimi minuti di tempo che ci rimangono, purtroppo un paio, ma qualche dritta buona riusciamo sicuramente a darla, anche a quegli adulti che decidono che questa estate 2017 è quella giusta per cominciare a fare dell'attività sportiva. Però è caldo, è umido, in questi giorni il tasso di umidità di Milano ha dei livelli veramente inenarrabili. Da dove cominciamo se siamo proprio a zero di sforzo fisico? Allora, anche qui vediamo di capirci. Se uno non ha mai fatto nulla e decide di utilizzare la stagione estiva per provare a mettersi in forma, il mio consiglio è: questi 2 mesi preparatori ad agosto, che ancora per tanti di noi è il mese di ferie e di vacanza, li utilizziamo innanzitutto magari per provare a perdere un po' di peso in modo graduale e intelligente, e per scegliere un corso che ci consenta di fare prevenzione, quindi riequilibrio posturale, correzione di eventuali problematiche, errori o quant'altro, in modo che poi d'estate saremo un po' più magri, un po' più in forma, avremo messo a posto i nostri punti critici e potremo in modo intelligente fare sport avendo la giornata a disposizione. Per chi invece è già uno sportivo tutto sommato attivo e abitudinario, allenato, è chiaro che diventa fondamentale la scelta dell'orario. Ecco, da questo punto di vista, comunque l'orario fondamentale per fare sport, soprattutto in questa stagione, è il mattino presto. Quindi prima di andare a lavorare, prima di portare i figli ai camp, esatto. per restare nel tema, perché è chiaro che il clima è molto molto molto più favorevole, con un doppio accorgimento. Il primo, magari modificare un po' le nostre abitudini alimentari inserendo un po' di carboidrati la sera, perché ci daranno l'energia per allenarci il giorno dopo. E poi affrontare l'allenamento con una piccola ricarica di carboidrati, 2 fette biscottate, 3-4 biscotti e quei 7-8 minuti di stretching che ci consentono di fare sport al mattino con un organismo che comunque si è appena messo in movimento senza correre rischi. Certo. E teniamoci sempre ben idratati, dottor Confalonieri, giusto? Questo assolutamente, ecco. E teniamoci idratati in modo preventivo. Da questo punto di vista un altro consiglio molto molto pratico. In 3 secondi? Sì, tè verde fatto da noi con le bustine, messo in frigo, delle belle brocche, al mattino un bel bicchiere, a pranzo un altro bel bicchiere, consente di idratarsi, consente bene di controllare la pressione e poco zucchero, e ci fa bene. Grazie, sì, dottor Confalonieri, devo chiudere, ma noi torniamo lunedì con Nicoletta. A tutti buon fine settimana.